storia di un'altra vita sprecata. Mio figlio ti sei appena scappato di casa. L'hai cresciuto in fretta dopo un'infanzia bruciata. Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava. Per loro non ha senso credere nei sogni, ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi. E vive sotto effetto per scappare dai ricordi. Di un angelo sui tacchi, col diavolo negli occhi. L'amore spacca il cuore a metà. Ti lascia in coma dentro il solito bar. Nessuno resta per sempre tranne i tatu sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. E prendo a pugni lo specchio. Non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica e starti vicino è autodistruttivo. Questa è la storia di un mare di delusioni. E affoghi fino a quando non provi emozioni. L'ho imparato come si sopravvive là fuori. Molto più dagli errori che dai suoi professori. L'amore spacca il cuore a metà. Ti lascia in coma dentro il solito bar. Nessuno resta per sempre tranne i tatu sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. E prendo a pugni lo specchio. Non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica e starti vicino è autodistruttivo. E sono solo uno dei tanti col sorriso triste e con gli occhi stanchi, che non riesce più a fidarsi degli altri. Con una mano mi abbracci e con l'altra mi ammazzi. E sono stato sempre quello solo, perché non sono mai stato come loro. Che hanno lo sguardo pieno d'odio e il cuore vuoto. Il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. E prendo a pugni lo specchio. Non ci riesco a cambiare.